Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e siamo di nuovo qui per raccontarvi la cronaca della giornata economico-finanziaria, come ogni giorno. E allora i temi di oggi, mentre continua a essere a record, come ricordavamo ieri, la differenza tra quanto rende un titolo di Stato greco, un'obbligazione greca, e un'obbligazione tedesca, e la differenza vuol dire che meno affidabile sei, più devi pagare in termini di tassi e interesse per ottenere qualcuno che, per trovare qualcuno che investa nel tuo debito. E la differenza tra la Germania, che è considerata il paese più affidabile nell'area euro quanto a solvibilità, quanto appunto affidabilità sul debito, e la Grecia ha toccato di nuovo un altro record a 4,1%, lo spread, come si chiama in gergo, cioè la differenza tra questi due rendimenti, ossia chi compra obbligazioni greche ha degli interessi del 4%, una differenza nel rendimento del 4% rispetto a chi compra obbligazioni tedesche. Non è una bella notizia per la Grecia continua a dire che comunque ce la farà. L'euro è a quota 1,334, quindi di nuovo è tornato sui livelli pre-accordo tra i leader europei sugli aiuti alla Grecia, gli aiuti bilaterali e con il ruolo del Fondo Monetario. Anche nei confronti del franco svizzero l'euro è tornato a quota 1,43, quindi debole. Detto ciò, ne parleremo nella seconda ora del programma con il capo economista dell'OCSE in collegamento con noi da Parigi, perché l'OCSE stessa oggi ha diffuso delle stime sulla crescita, sui conti pubblici che riguardano anche l'Italia. Allora, le notizie principali per quello che riguarda le stime dell'OCSE sono che gli Stati Uniti recupereranno da questa crisi in maniera più veloce rispetto all'Europa e all'area euro e anche rispetto al Giappone, per cui nei primi due trimestri il PIL americano crescerà del 2,4 e del 2,3%. La seconda notizia, sempre fonte OCSE, riguarda invece l'Italia. Avremo un primo trimestre che si è già chiuso chiaramente con una crescita del PIL intorno all'1,3%, e poi invece avremo un secondo trimestre con una frenata di nuovo, il PIL crescerà solo dello 0,5%. Cercheremo di capire perché, il perché di una frenata nel secondo trimestre, sempre appunto alle 18.10. Infine devo dire plauso anche dall'OCSE al modo in cui il governo ha gestito il debito, l'attenzione del governo alla tendenza del debito italiano. Questo è il fronte, diciamo, più internazionale. Il fronte di casa nostra riguarderà, e partiremo subito, come promesso, ci occuperemo oggi anche degli artigiani. Continua infatti il nostro viaggio tra le categorie professionali, lo facciamo ciclicamente. Ci sono i piccoli imprenditori, ci sono i professionisti, e anche qui vedremo cosa uscirà dall'incontro del 15 aprile tra il ministro Alfano e i rappresentanti degli ordini professionali. Si vorrebbe andare verso una riforma degli ordini professionali, ma ci sono anche milioni di artigiani. Sono 5 milioni di artigiani in Italia, e la cosa paradossale di cui parleremo subito è che nell'anno in cui la disoccupazione è tornata a livelli alti anche in Italia, viaggia verso l'8,5%, con centinaia di migliaia di persone in cassa integrazione, il mondo degli artigiani denuncia 23.000 posti vuoti, 23.000 posti vacanti, non riesce a trovare persone per le varie professioni o mestieri che compongono il variegato mondo dell'artigianato. Paradossale, perché appunto nell'anno della disoccupazione record che vi siano 23.000 posti vacanti la dice lunga su un mercato del lavoro forse anche un po' troppo rigido e vischioso. Poi, come sempre, la borsa oggi vede Milano cedere lo 0,20, peggio fa Parigi, meno 0,60, e anche Francoforte, mezzo punto percentuale di calo, cala anche Londra, meno 0,30, l'America perde mezzo punto percentuale in questo momento. Tra i titoli particolarmente negativi Fiat, meno 2%, Saipem, meno 1,90, Eni, meno 1,80, Intesa, meno 1,60, Estima Electronics, meno 1,5, Azimut, meno 1,4, Banco Popolare meno 1,2 come Bulgari, l'1% lo perde Monte dei Paschi e anche Geox, ma anche Luxottica ed Exor, Enel meno 0,90 come Unipol e Telecom. Chi guadagna? Fimeccanica molto forte, più 3,1% sopra i 10 euro per azione, Prysmian più 2,5, Pirelli più 1,7, Campari più 1,4, Italcementi più 1,1, Buzzi Unicem più 0,80, Lottomatica più 0,6. Come Autogrill lo 0,4% invece è il rialzo di Impregilo. 349-238-6666 per i vostri sms. Ancora parleremo di consumi, c'è una denuncia della Confcommercio, e questo è il tema che si tiene assieme a quello del PIL nella seconda ora, perché continuano a essere non deboli, in flessione vera e propria i consumi in Italia, tant'è che la Confcommercio oggi denuncia anche a febbraio meno 2,5% i consumi alimentari. È la prima volta che gli alimentari vanno così male, nel senso che, brevissimamente, come la crisi è scoppiata a fine 2008, i primi beni a essere colpiti sono stati beni durevoli, come sempre accade in questi casi, quindi elettrodomestici, auto e quant'altro. Gli alimentari hanno tenuto lungo tutto il 2009, adesso invece sembra essere la volta anche dei generi alimentari, meno 2,5% con un 2 in volume e meno 2% anche in valore, per cui non è solo il volume a calare. E l'abbigliamento fa un meno 1,5% in volume, come volumi, e però meno 2,2% in termini di valore, quindi c'è proprio una contrazione non solo del numero di acquisti ma anche del costo del singolo acquisto. Ancora si parlerà poi della libertà di impresa in Italia, l'Italia agli ultimi posti, e poi, come promesso, il tema delle materie prime, visto il petrolio, l'acciaio e il rame a livelli record, e qui la spinta non è solo speculativa, c'è anche speculazione, ma c'è anche la ripresa economica in atto in Asia. 349-238-6666 per gli sms, le altre notizie in breve. Vabbè, partiamo subito in salita, mi correggo, è il FTSE All Star che perde lo 0,20 e il FTSE MIB perde lo 0,80%, grazie agli ascoltatori sempre attenti che mi hanno fatto notare, così come il FTSE All Share perde lo 0,60, quindi assolutamente in linea con il resto delle borse europee. Ancora la benzina, nuovi rialzi, è sopra 1,42 euro, il gasolio è 1,25 euro. Ora, riceviamo molti messaggi degli ascoltatori su questo tema. Abbiamo fatto una puntata venerdì con il sottosegretario Saglia e con il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana De Vita. Non c'è verso di avere una spiegazione, anche se il livello di adesso a 1,42 è vicinissimo al record, parlo della benzina verde, di 1,52 euro al litro, che fu toccato praticamente quando il petrolio era a 147 dollari al barile. Allora, io non so più come prendere questo tema, perché è vero che il petrolio pesa per un terzo sul prezzo della benzina, però, quindi, ammettendo che pesi anche solo per 50 centesimi su 1,42 euro di costo, siccome il petrolio è a 80 dollari, 85 dollari al barile e a record era 150, se noi moltiplichiamo, diciamo, quello che è l'incidenza del petrolio, dovremmo avere avuto la benzina a record a suo tempo a 1,90 euro al litro. Invece, quando il petrolio era a 150 dollari a spanne al barile, la benzina era a 1,52 euro. Allora qualcosa non torna, perché non si capisce perché adesso che il petrolio è 80, quindi quasi la metà, la benzina sia vicinissima al record di quando il petrolio era a 150 dollari al barile. Io non riesco a capire, ma a questo punto mi arrendo. Immagino che i petrolieri abbiano una spiegazione anche per questo. Noi andiamo avanti invece sull'RC Auto, anche su questo torneremo, perché il costo per assicurare un'auto di media cilindrata è aumentato in media del 14% nel 2009, rincari più forti per i profili più a rischio, i neopatentati più 16%, al sud più 20%, ma insomma non si capisce il perché di un aumento delle polizze RC Auto se non per compensare, diciamo, altre perdite nel mondo assicurativo. Questo è il sospetto che viene, ma chiaramente è un sospetto malizioso, cattivo e quindi sbagliato. Ancora la vicenda del mondo dell'auto, parleremo, dimenticavo, anche dell'accordo Nissan con Daimler Chrysler, scambio azionario, partecipazione al 3,1% tra i due gruppi, 4 miliardi più che di guadagni, di risparmi, soprattutto attesi, nuove piattaforme, la Smart fatta in comune. Insomma, il mondo dell'auto va verso quel processo di aggregazione che identificò 2 anni fa Sergio Marchionne, no? Dicendo rimarranno poi sono 6 produttori a livello mondiale. Non interessati comunque né Daimler, che chiaramente è il proprietario del gruppo Mercedes, né Renault a una fusione. Sarà interessante capire cosa farà adesso il gruppo francese PSA, quindi Peugeot e Citroën da un lato e BMW dall'altro. Buongiorno. Allora, le banche e gli stipendi record dei trader bancari e Wall Street hanno fatto un 2009 da record, 140 miliardi di guadagni, bonus, benefits nell'anno peggiore per la finanza, e così come hanno fatto guadagni record i gestori di fondi speculativi, Soros ma non solo, 3 miliardi di dollari a testa nel 2009. E oggi il numero uno di JP Morgan, James Dimon, dice: la retorica antibanche dell'amministrazione americana non è utile perché demoralizza le attività e i dipendenti delle banche americane. Ma secondo me però con i bonus che si sono date riescono dati un po' di così autostima in più ce l'avranno. Dopodiché la retorica antibanche dell'amministrazione americana non capisco cosa voglia dire, perché ancora aspettiamo la legge di Barack Obama per evitare che succeda di nuovo quello che è capitato ed è poi esploso nel 2008. Poi non so, resto sempre sorpreso, ma JP Morgan, sarebbe interessante riuscire a parlare anche con Jamie Dimon. Si dimentica che ha ricevuto 25 miliardi di dollari di aiuti dallo Stato americano quando stava per saltare in aria anch'essa dopo Lehman Brothers, e si dimentica che ha pagato compensi ai suoi dipendenti per 29 miliardi di dollari nel 2009, un più 30% sul 2008, cioè è stata salvata dal contribuente americano nel 2008, si è distribuita un 30% in più di bonus e salari nel 2009, e adesso dice che c'è una retorica antibanche da parte dell'amministrazione americana. E vabbè. Ancora sui temi, adesso poi arriviamo al tema di apertura. L'Italia è ultima nell'Unione Europea per la libertà di impresa, è uno dei temi che verranno affrontati tra venerdì e sabato nel forum Libertà e Benessere, l'Italia del futuro, organizzato a Parma dal Centro Studi Confindustria. Sarà presente il numero 1 della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, il ministro Tremonti, cito gli esponenti principali, la presidente Confindustria Emma Marcegaglia, chiaramente chiuderà il presidente del Consiglio Berlusconi sabato. Radio 24 sarà in diretta con Focus Economia da lì venerdì e poi con il GR sabato mattina durante la giornata. Il paese più libero è l'Irlanda, noi siamo a 35 come punti sotto la media europea. Devo dire che se però l'Irlanda è il paese più libero, ogni tanto bisogna stare anche attenti a queste classifiche visti i problemi che ha l'Irlanda. E invece il fisco italiano su imprese, sulle persone, è il peggiore della media europea. Praticamente l'aliquota marginale sul reddito di impresa è del 33%, sempre è la Fondazione Bruno Leoni che lo racconta, contro una media europea del 23,5%. La pressione fiscale sui profitti è del 23% in Italia contro il 12% a livello europeo. Da noi, sugli individui, l'aliquota massima è del 43% a fronte del 35% medio in Europa. Da noi però è anche il livello più alto, quello dell'evasione fiscale e dei contribuenti, stimata in circa 100 miliardi l'anno. Ecco perché si parla di sistema fiscale ingiusto: ha le tassazioni più alte e le aliquote più alte e l'evasione più alta. Quindi chi paga paga tantissimo, ma tanti pagano pochissimo, per usare una battuta. Allora, oggi c'è una buona notizia, chiede Alberto. Certo che c'è, adesso ne parliamo subito in apertura. Non sempre si possono trovare le buone notizie, non sempre ci sono, delle volte nemmeno si possono inventare. Però, la buona notizia c'è, se vogliamo vederla in questo modo, ossia nell'anno in cui la disoccupazione ha toccato l'8,5% a febbraio, nell'anno in cui sempre a febbraio abbiamo saputo che sono stati persi 395.000 posti di lavoro, meno 2%, e che la disoccupazione giovanile è schizzata al 28,2%, insomma, in questo anno qui, con la cassa integrazione che ha fatto più 300%, ci sono settori della nostra economia in cui mancano decine di migliaia di posti di lavoro. E sono i cosiddetti mestieri artigiani, fuori da ogni retorica. Insomma, gli artigiani in Italia sono circa 5 milioni, quindi un numero alto, altissimo, pari praticamente al numero degli imprenditori. Per artigiani si intende tutto ciò che abbia a che fare con un mestiere, appunto si va dal fioraio, il vetraio, l'artigiano del mobile, il calzolaio, qualunque cosa voi volete che rientri sotto la voce di mestiere. E la cosa che a noi ha lasciato obiettivamente basiti è che secondo i dati della Confartigianato, nel 2009, nonostante la crisi, un'impresa artigiana su quattro, per cui stiamo parlando di 1.300.000 imprese, ha avuto difficoltà a reperire personale qualificato, con il risultato che rispetto a al fabbisogno di 93.400 persone hanno dovuto rinunciare ad assumere un quarto della manodopera necessaria. Quindi, se i numeri non sono un'opinione, stiamo parlando di 23.400 posti che non sono stati occupati. Ora, io capisco che il mercato del lavoro non sia un mercato perfetto, che la domanda non si incroci sempre con l'offerta, però da una parte abbiamo 300.000 disoccupati, che si sono 395.000 posti che si sono persi in un anno, febbraio 2009 su febbraio 2010. Dall'altra parte ci sono 25.000 posti vacanti, per cui artigiani che non hanno trovato apprendisti, persone da inserire nella bottega o nell'impresa artigiana. E per capire, perché appunto non capiamo, siamo in collegamento con il presidente di Casa Artigiani Lombardia, che raggruppa praticamente 15.000 artigiani lombardi, quindi nella regione, lo dico con massimo rispetto verso le altre regioni, più dinamica, in cui il mercato del lavoro dovrebbe funzionare a livello europeo. Vorrei capire se anche qui ci sono stati problemi. Presidente Mario Bettini, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Allora, anche voi avete avuto problemi o riguardo altre regioni a reperire manodopera? Io le trovo una cosa incredibile. Come tutti abbiamo i problemi di reperire manodopera nel campo dei mestieri largamente intesi, nel senso che forse la definizione è un po' riduttiva e scoraggia chi deve accedere, ma però sono tutte attività che poi si rendono in modo sufficiente e meglio di un lavoro sottopagato sotto o in nero, per usare termine io, ecco, vorrei capire una cosa, perché vedo già alcuni sms al 349-238-6666, dicono vabbè, ma se poi ti offrono 800.000 euro al mese è chiaro che uno resta a lavorare 1.000 euro da dipendente in qualche impresa. A parte il fatto che non è proprio così, ma vorrei capire, voi vi siete posti una domanda, oltre che denunciare l'assenza di 25.000 posti di lavoro, per cui vuol dire che insomma anche in Lombardia avete avuto migliaia di posti di lavoro vacanti, cioè che cos'è? Un problema culturale? Uno preferisce andare in un call center sottopagato in un call center con lavoro precario piuttosto che andare a fare il vetraio, il calzolaio e via così discorrendo sui lavori artigiani? Devono mettere in conto questi giovani di fare un periodo di apprendistato, di sacrificio, nel senso che un mestiere si deve imparare e occorrono almeno a seconda delle attività specifiche un tempo di apprendistato, occorre un tempo di apprendistato che varia. Uno che fa vetrate artistiche o che ripara organi ovviamente dovrà impiegare più tempo, ma però lo sbocco professionale è sicuramente assicurato, perché c'è carenza Pensi ai 2000 panettieri che mancano a Milano. 2000 a Milano? 2000 panettieri mancano a Milano. Ma quanto vengono pagati? Perché vedo molti ascoltatori che dicono, ma insomma sì, chiaro, voi cercate lavori, insomma, adesso mi passi il termine, ma dicono quasi da schiavista. Hanno la paga sindacale che è concordata a livello nazionale, ma poi imparare un mestiere, adesso fa effetto dire 2000 panettieri, però sono se tantissimi. Lei pensa al calzolaio o al ciabattino, come si diceva una volta, è una rarità da trovare in città, ma anche nei paesi. Ci sono paesi che non hanno più il ciabattino. E basta fare un piccolo investimento di poche migliaia di euro per prendere quelle quattro macchinette che servono e avere il lavoro assicurato per tanto tempo, un lavoro autonomo, un lavoro ben retribuito. Allora, però, Presidente Bettini, mi faccia capire una cosa. 2000 panettieri a Milano, 25.000 artigiani in tutto il paese, è una cifra imponente, vista le difficoltà. Se voi dite che poi li pagate con la paga sindacale, che non c'è sfruttamento... E magari con incentivi per attirarli. Ecco, allora, se li pagate con la paga sindacale, almeno con la paga sindacale, se il contratto è appunto tutto regolare, se fate anche gli incentivi... Qui il problema non può essere solo economico, perché io mi rifiuto di credere che ci sia solo un problema. Non penso che, appunto, io citavo i call center come esempio, non ce l'ho con i call center, ci mancherebbe, ma come esempio emblematico. Sì, ma... Allora, perché secondo voi i giovani non vengono a fare l'apprendistato? Perché è duro lavorare venerdì sera dalle 11 in poi, lavorare il sabato e lavorare la domenica. Ormai i giovani hanno dimenticato un po' il sacrificio e invece per farsi strada, specialmente nel mondo artigiano, il sacrificio è una componente naturale, perché durante questa crisi gli artigiani sono quelli che hanno licenziato di meno, che hanno chiuso di meno, perché sono convinti che loro stanno svolgendo, non diciamo una missione, per non fare della retorica, ma però hanno un'idea differente dell'azienda, hanno un orgoglio che vogliono portare avanti. Adesso però io una cosa dico, Presidente Bettini, poi magari la risposta dopo il meteo e la pubblicità. C'è un problema, chiaramente. Allora, ci può essere un problema culturale. Uno dice, ma preferisco dire che lavoro in un call center che dire che lavoro da un calzolaio. Questo è un problema culturale. Per cui lì lo dico tranquillamente a chi scrive, non ci si può lamentare se poi i fornai o gli apprendisti fornai sono immigrati, se alcune professioni vanno agli immigrati, se uno non ha voglia di fare non le facesse, però poi non, tra virgolette, rompesse le scatole con la presenza di immigrati in professioni che gli italiani non vogliono più fare. Quindi ci può essere un problema culturale, oppure ci può essere un problema magari anche culturale, però siccome mi sembrano professioni più che degne, non so perché uno debba vergognarsi di dire faccio il vetraio o faccio il calzolaio, faccio l'artigiano del mobile, faccio il liutaio, e ci sono liutai che lo fanno senza accorgersene, ma insomma, detto questo, forse c'è un problema anche di appeal, di attrattività in quello che voi offrite. Molti scrivono, ma insomma voi volete solo della gente apprendista, poi quando uno impara lo mandate via, le paghe sono bassissime. Io leggo gli sms che ricevo al 349-238-6666, cioè in realtà cercate manodopera molto, molto comoda e quindi non diventate così. Guardi che il problema è contrario. Bene, bene. La paura dell'artigiano è di fare la baglia all'apprendista e quando questi ha preso il mestiere se ne va o si mette da solo o si mette sul mercato. È esattamente il contrario. Vabbè. Allora facciamo una cosa, Presidente Bettini, dopo il metodo e la pubblicità lei mi dia anche qualche proposta, perché poi arriveremo anche al vostro rapporto con le banche, con gli studi di settore e quant'altro, però qualche proposta, perché secondo me il tema resta, ci sono 2000 panettieri, se non vogliamo fare retorica, però insomma, ci sono delle posizioni libere, voi appunto, ripeto il dato visto che ce lo chiedono gli ascoltatori, cercavate alla fine 100.000 quasi persone e non 93.400 nel 2009, ne avete trovate 24.000 in meno rispetto alla richiesta. Vorrei sapere voi, come mondo dell'artigianato, che cosa proponete per convincere, per rendervi più capaci di attrarre anche i giovani, a partire dal salario, ma non solo. 349-238-6666 per i vostri sms. Dico giovani, ma può voler dire anche l'operaio che ha perso il lavoro, il dipendente disoccupato e quant'altro. Giovani è un'esemplificazione forse anche riduttiva. Ci risentiamo dopo il meteo e la pubblicità. Allora, non vi dico la quantità di messaggi che sta arrivando sul tema degli artigiani, dei 25.000 posti vacanti, dei 2.000 panificatori che mancano solo a Milano, di due categorie messaggi, non posso riassumerli tutti, quelli che arrivano al 349-238-6666. C'è chi testimonia, non so, cuoco che guadagna almeno 2.000 euro al mese, 7 settimane di ferie, bonus, è difficilissimo trovarlo. Ancora per quello che riguarda una professione come lo spolpatore di carne, anche qui non riguarda certi manager, ma riguarda il mondo della macelleria, non si riescono a trovare giovani in questa professione. La battuta sugli iotai non la spiego, chi vuol capire l'ha capita, cioè, c'è chi suona il violino senza saperlo. E poi invece tutto un insieme di altri messaggi che dicono: ma insomma, state raccontando una balla, perché loro vogliono pagare poco, i contratti sono in nero, è una categoria che fa molto nero quella degli artigiani, vogliono personale sottopagato, non lo vogliono formato. Insomma, Presidente Bettini, due categorie di messaggi molto molto diversi. Allora, partiamo dalla vostra proposta, così usciamo anche da chi dà ragione a lei e da chi invece le dà torto e dice: no, attenzione, qui è troppo facile metterla giù così, è molto più complicata la situazione, ecco perché poi voi non riuscite a trarre i giovani o chi ha perso il lavoro in altri settori. Le proposte. Le devo una precisazione. Mi dica, mi dica. 5 milioni sono i lavoratori nel campo artigiano. Certo, no, non gli artigiani, non le botteghe artigiane, ci mancherebbe. Gli occupati nel settore. Le imprese artigiane sono un terzo circa, no, certo. Ecco, quindi. E per quanto riguarda, dunque, lavoro in nero è un mito da sfatare che poi oltretutto non riguarda i dipendenti, primo. Secondo, la maggior parte degli artigiani ormai sono terzisti, non riguardano i mestieri, ma quello che fanno lo fatturano. Terzo, non è vero che non si paga, ma poi la prospettiva non è tanto il salario, è imparare un mestiere. E per imparare un mestiere occorre intanto un lavoro di preparazione propedeutico con gli studenti che visitano le botteghe, le officine, compagnia bella. Secondo, non ci sono solo panettieri e calzolai, ci sono fior di attività artigiane che sono di tutto rispetto anche come contenuto professionale. Però bisognerebbe, fatta la premessa che occorrerebbe un discorso di preparazione dai 14 anni in poi, noi non siamo ancora arrivati a fare, la Casa Artigiani non è ancora arrivata a fare un articolato per una proposta di legge, ma gli attori che ipotizziamo sono questi: l'artigiano che nel momento in cui accusa la mancanza di manodopera si renda disponibile ad accettare dei giovani che vogliono imparare, che sicuramente nei primi mesi o in un primo tempo le procureranno dei danni, perché più che produrre devono imparare e certo, e certo. È sbagliando che si prima impara. Poi i genitori. I genitori che non devono mitizzare il colletto bianco, che non devono non so, vergognarsi mi sembra un po' troppo grosso, ma sì, vabbè. Guardi, cambiare la testa dei genitori è un'operazione insomma alquanto difficile, anche lo stesso non giovane ci che molto. Vuole anche lo stesso giovane che vuole imparare un mestiere deve rendersi conto che i suoi guadagni intanto che impara il mestiere tanto che fare il mestiere, saranno guadagni modesti, ma la sua prospettiva, perché guardi che buona parte degli artigiani erano apprendisti e poi si sono messi da soli e sono andati avanti a fare gli artigiani, quindi la prospettiva del lavoro autonomo, di essere proprietari del proprio e di essere programmatori del proprio... Ma fare il vetraio, il calzolaio, il panettiere, si guadagna poi quando uno finisce questo percorso? Si guadagna bene? Sicuramente, guardi, non prendiamo però come esempio i panettieri... Vabbè. E fermiamoci lì, ci sono un sacco di esempi, li ha citati anche lei, ebanisti e quant'altri, quelli che fanno, non so, che lavorano... Sì, una cosa Presidente, d'accordo con lei che quando si fa l'apprendistato si guadagna di meno, a investire su una professione significa però anche mangiare giorno per giorno, non è che uno poi mentre investe fa Gandhi. Mi raccomando però quanto dura l'apprendistato, perché purtroppo in questo paese abbiamo visto che uno resta apprendista, stagista, collaboratore a vita, cioè non è, allora se lei mi dice guarda uno, due, tre anni va bene, se poi uno dopo 10 anni ancora a 1000, 1200, 1400, insomma. Prego. Il discorso che faccio io non è riferito all'apprendistato canonico previsto dalle leggi, è tutto il tempo che serve per imparare. Ho capito benissimo, dico solo basta che poi ci sia una progressione anche mentre uno impara, cioè se parti da 600 poi vai a 800 poi vai a 1000 poi a 1200, non che diciamo dopo 4 certo, anni certo, ecco. quando sarà un operaio qualificato avrà la sua paga, che come le dicevo prima la paga contrattuale, e laddove la mancanza di dipendenti è ancora sensibile ci sono degli incentivi, ma guardi che io glielo posso testimoniare personalmente, buona parte di questi artigiani danno dei sovrappiù rispetto alla paga tabellare, dei sovrappiù sotto banco, vabbè, no, ma questo va bene dai, sto scherzando. Non lo so, lei non l'ha detto, però insomma, ci possono essere dei bonus, degli incentivi, e su questo lei ha ragione. Sono d'accordissimo con lei che andrebbero cambiate anche le teste, delle volte più dei figli, più dei genitori che dei figli, perché insomma se poi uno ha fame non può fare lo schizzinoso, se no basta lamentarsi e poi allora vi va bene la generazione 1000 euro. Ritengo che si debba stare molto attenti, lo dicono anche molti ascoltatori, a quello che è appunto il periodo dell'apprendistato e la paga dell'apprendistato. Una domanda gliela devo fare, poi devo chiudere magari del rapporto banche, imprese e fisco, parliamo in un'altra occasione perché il tema è su questo. Chiedono molti ascoltatori, ma oltre ai giovani, se un trentenne, un quarantenne espulso dal mercato del lavoro, per esempio dal mondo della manifattura, dall'impresa, dai servizi, volesse venire a fare l'apprendista, diventa un problema? Non credo. Patto che sia disposto a cominciare a imparare a fare un altro mestiere. Qui ecco dove si inserisce il discorso delle pubbliche della regione, nella fattispecie, perché la competenza regionale dovrebbero dare degli incentivi sia all'artigiano che al dipendente, perché praticamente invece che formazione fanno riqualificazione. Va bene, no, ma questa è una cosa importante che poi anche su base nazionale andrebbe fatto proprio per trovare e rendere meno vischioso il mercato del lavoro. Dopodiché, se uno non vuole, perché culturalmente non è attratto dal mondo dell'artigiano e preferisce fare il finto colletto bianco, perché poi magari fossero i veri, quelli sono fatti suoi. Io mi riprometto con lei, Presidente, di parlare invece della situazione fiscale da un lato e anche del rapporto con le banche, perché voi siete piccoli e le banche su questo ogni tanto sono un po' più sorde che con i grandi. Adesso non abbiamo più tempo, la ringrazio molto per la disponibilità, comunque visto che molti di voi chiedono anche riferimento a Casa Artigiani Lombardia, e il Presidente in collegamento con noi era Mario Bettini, che ringrazio. Grazie Presidente. Grazie a lei dottore. Adesso la borsa e poi l'accordo Renault con il gruppo Mercedes, con il gruppo Daimler, borsa che chiude in negativo dello 0,80%, Dunque, tra tantissimi messaggi che sono arrivati, devo dire, ne leggo adesso un altro, una sarta che ci scrive: per imparare il mestiere ho lavorato 8 anni senza essere pagata. 8 anni mi sembrano tanti, forse non si riescono a reggere, però è anche vero quello che scrivono altri ascoltatori, che se si paragona l'apprendistato al tempo che per esempio ci mette uno studente a laurearsi, a prendere la laurea breve, il diploma, a quel punto insomma anche lì uno sta investendo sul futuro senza ottenere niente in cambio, nel caso dello studente soprattutto. Poi c'è chi dice basta con, non dice basta, su un'altra parola, comunque avete rotto con artigiani e commercianti, perché non parlate mai dei medici, dei dentisti, di queste categorie? Ieri, sull'evasione fiscale il tema, ieri ho speso 100 euro per un'ecografia in nero. Io chiedo perché in nero, però, perché vanno chieste anche di ricevuto, dopodiché dell'evasione dei lavoratori autonomi abbiamo parlato decine di volte, gli ultimi dati, gli italiani sopra i 200.000 euro sono al 70% pensionati e lavoratori dipendenti, gli italiani sopra i 100.000 euro lordi sono al 70% pensionati e lavoratori dipendenti, delle due l'una, o i pensionati in Italia sono tutti come quelli svedesi, oppure gli autonomi evadono e sono lì, ed è lì che si concentra l'evasione, ma non è che possiamo fare sempre la puntata su questo. Adesso le informazioni sul traffico. Oppure magari abbiamo dei pensionati miliardari, non lo sapevamo, e poi la borsa, poi Daimler, Renault e le previsioni dell'Ocse. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa, poi di auto e poi del rapporto Ocse. Moltissimi messaggi sul fronte artigiano. Allora, chiudiamola qua per oggi. Però, da un lato siamo d'accordo, l'abbiamo chiesto al presidente degli artigiani lombardi, che gli stipendi devono essere non proprio da fame, anche per l'apprendista, e altrimenti diventi poco attraente per qualunque tipo di categoria, giovani o disoccupati. Però c'è anche un problema culturale, e a chi scrive che il problema è solo economico e che gli artigiani vogliono solo dei rapporti, diciamo così, quasi da schiavismo, io non posso farlo, ma girerei tutti gli altri messaggi che stanno arrivando dall'altra parte della barricata, di ascoltatori che ci dicono: non riusciamo a trovare persone pur offrendo 2.000, 1.500, 2.500 euro al mese. Penso, alza la mano il tecnico di regia, adesso te lo giro il messaggio, insomma, allevatori a Cremona, a Brescia hanno solo dipendenti indiani, intesi come dell'India, per mungere e pensare alle stalle, e guadagnano dai 2.500 ai 3.000 euro al mese. Allora, voglio dire, lasciate stare ogni battuta su mungere le vacche, però insomma questi sono casi. La stessa cosa ce lo scrivono i sarti, i vetrai, guardavo prima i cuochi, i ristoratori, professioni che escono anche dal mondo artigiano in senso stretto, ma insomma evidentemente c'è anche un problema culturale. Nessuno dice che ci sia solo quello, però evidentemente fa più figo dire che lavori nel mondo dei servizi, anche se poi resti interinale a vita, stagista a vita a 1.800. Però sul biglietto da visita hai il biglietto da visita. Vabbè, ognuno faccia le scelte che vuole. Adesso parliamo di borsa. Fermo restando che sarà l'ultima puntata con il nostro tecnico di regia, che da domani si trasferisce. Allora, meno 0,80% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,50% Francoforte, meno 0,30% Londra. L'America sta perdendo lo 0,26, euro su dollaro 1,3355, ne parliamo dopo, euro debole anche sul franco svizzero 1,4321, molto bene Finmeccanica, più 3,3% sopra i 10 euro per azione, 10,32 euro, Andrea Fontana, Radio Colle, Sole 24 ore, buonasera e perché? Buonasera, certamente un insieme di cause sul significativo rialzo di Finmeccanica che si è concretizzato soprattutto nella seconda parte della seduta. Innanzitutto il ritorno sopra quota 10 euro, quindi la soglia psicologica, che ha poi permesso al titolo di allungare fino a 10,32. In secondo luogo la firma da parte di Ansaldo Breda di un contratto certamente di valore non elevatissimo per un gruppo come Finmeccanica, comunque da 33 milioni con la TM di Milano, che riguarda 51 Jumbo Tram. In terzo luogo invece l'attesa per il vertice di venerdì, vertice bilaterale italo-francese a Parigi, che dovrebbe avere tra gli altri argomenti all'ordine del giorno anche l'annuncio e la firma, insomma, di un memorandum of understanding tra Areva e Ansaldo Nucleare per una partnership strategica tra i due gruppi, firma che è stata confermata ieri dall'ambasciatore francese a Roma e che ha insomma innescato movimenti sul titolo in attesa questa partnership. Allora, volete sapere del Dow Jones agli 11.000 punti? Non li ha toccati, però fatemi verificare che non sia successo qualcosa negli ultimi istanti. No, 10.940, sempre vicino comunque ai livelli pre-scoppio della crisi finanziaria del 2008, mentre è tornato già ai livelli pre-crisi l'indice indiano, non ce ne occupiamo quasi mai, ha un nome molto, molto sexy, accattivante, si chiama Sensex, ma è l'indice della borsa indiana, ha superato i 18.000 punti e quindi attenzione perché lì si muove molto. Devo dire che questa mattina anche in Giappone l'indice ha chiuso invariato, quindi non in calo, mentre a Hong Kong più 1,80%, quindi l'Asia spesso si muove anche in maniera diversa dall'Europa. Ancora sui titoli, Prismian più 2,70% e Pirelli più 1,60%, Campari più 1,3%, Buzzi Unicem più 1,1%, Italcementi più 1%, Autogrill più 0,80%, Pirelli, Prismian, Autogrill, rapidamente. Dopo alcune sedute di correzione il mercato è tornato con attenzione, diverse case d'affari hanno preso posizione, ha consigliato anche di prendere posizione sul titolo, nonostante alcuni operatori segnalino che il titolo Prismian dall'inizio dell'anno ha corso molto, ha quasi guadagnato il 29% tra speculazione appunto legata all'uscita di Goldman e possibile ingresso di nuovi investitori, poi c'è stato come ricordiamo un collocamento di quasi 17% sul mercato, ma i fondi che se ne sono accaparrati sono presi quoti Prismian stanno certamente operando in entrata e in uscita sul titolo. Per quanto riguarda Pirelli, ancora un rimbalzo che va in controtendenza rispetto al settore auto di oggi, un pochino sottotono, un rimbalzo che è anche figlio ancora una volta dell'attesa per questo spin-off della parte immobiliare che potrebbe concretizzarsi insomma nei prossimi mesi. Una buona giornata anche per quanto riguarda il settore dei cementi, da segnalare invece anche un più 0,8% di Autogrill che ha rinnovato una serie di contratti in Canada per la gestione di 23 aree di servizio lungo le due autostrade più trafficate del Canada per complessivi 75 milioni di euro circa, e questo ha spinto il titolo fin da questa mattina. Allora, i titoli peggiori invece, tu hai ben chiarito i motivi anche di Autogrill, di Finmeccanica, di Prismian e dei titoli delle costruzioni. Eni a meno 1,90 col petrolio, comunque 86-87, come mai? Certamente. E anche Saipem meno 1,80. Sì, è stata una seduta per la verità di correzione per l'intero comparto delle materie prime. Ricordiamo che il petrolio oggi ha decisamente corretto in area 86 dollari dopo l'uscita dei dati sulle scorte petrolifere statunitensi che si sono rivelate superiore alle attese. La correzione del petrolio ha portato a un allargamento a un abbassamento dei titoli del settore delle materie prime, tant'è vero che l'indice di riferimento del settore delle materie prime ha perso circa l'1%, in Europa è stato il peggiore del settore, e tant'è vero che ha avuto riflessi su Eni e su Saipem in Italia, ma un po' tutto il settore delle materie prime oggi ha un po' subito una battuta al resto. Allora, visto che parliamo di Daimler, dell'accordo con Renault spinto dal governo francese, Fiat meno 2,16%, come mai? Perché ieri abbiamo visto dei dati non belli sul settore auto in Germania. Esatto, quelli seguivano a dati inferiori del mercato a quelli pubblicati all'inizio del mese, cioè prima della festività di Pasqua in Italia, dove Fiat aveva registrato una crescita inferiore a quella del mercato. Oggi sono arrivati anche i dati brasiliani che che hanno evidenziato una crescita importante, più 51% su febbraio dello scorso anno, ma con un mercato che invece è cresciuto del 60%. Va detto comunque che per quanto riguarda Fiat, anche qui si parla di questioni tecniche, riferivano dalle sale operative, il titolo si è avvicinato, ha sfiorato i 10 euro e quindi poi ha avuto una correzione al ribasso che su queste soglie è sempre piuttosto significativa. Allora, le banche oggi deboli per l'effetto Greco, ne parliamo dopo il GR, così come daremo anche i migliori e i peggiori, e poi appunto ci collegheremo con il capo economista dell'Ocse da Parigi. 349-238-6666 per i vostri sms. Grazie intanto a Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, il GR. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Continuano ad arrivare molti messaggi al 349-238-6666 sul tema dei 25.000 lavori mancanti nel mondo degli artigiani. Torneremo sulla puntata. Nessuno sta dicendo che siano lavori eccellenti, però insomma, attenzione ai luoghi comuni. Non sono solo lavori, e imparare un mestiere secondo me è un elemento assolutamente degno. Io ritengo quello del giornalista sia un mestiere e non una professione, per cui figuratevi un po' se poi mi sente l'ordine si arrabbia, ma questa è la mia personale opinione che conta nulla. Invece dovevamo concludere con la borsa e i migliori e peggiori in assoluto: Montefibre più 14,3%, Cell Therapeutics più 10,80%, Mea Tecnimont più 4,86%, Safilo più 4,20%. Chi perde? Louis Vuitton meno 3,90%, poco altro, PMS meno 3%, Societe Generale meno 2,80%. I titoli bancari penalizzati dai rischi sulla Grecia: Monte dei Paschi meno 1%, Banco Popolare meno 1%, Intesa meno 1,80%, ancora Popolare Milano meno 0,80% e Unicredit meno 0,5% di Grecia. E prospettive economiche italiane, tenuta dell'euro, parleremo dopo le informazioni sul traffico. Adesso vorrei parlare invece dell'accordo, dell'annuncio ufficiale arrivato in mattinata tra il gruppo francese Renault e anche la sua controllata giapponese Nissan e la tedesca Daimler, quindi il gruppo Mercedes in primo luogo. E quindi stiamo parlando del terzo produttore europeo, Renault, e 40 miliardi di euro di giro d'affari, 100.000 dipendenti, e del nono produttore europeo, Daimler, che però ha un giro d'affari di 95 miliardi di euro, perché i produttori sono per volumi, ma qui parliamo anche di giro d'affari, ha un giro d'affari doppio rispetto a Renault e ha 270 mila dipendenti, quindi due volte e mezzo il gruppo Renault. Tra l'altro, oltre a Mercedes, chiaramente anche il marchi Smart e poi la divisione aerospaziale. Colleghiamoci con Bruxelles, dove c'è Andrea Malan, perché l'accordo annunciato oggi di un'alleanza tra Renault e Daimler, con uno scambio azionario che darà a Renault Nissan una partecipazione del 3% di Daimler, a sua volta Daimler avrà il 3% del gruppo Renault Nissan. Attesi guadagni per 4 miliardi di euro da questo accordo. Allora, Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore a Bruxelles, ha seguito la presentazione dell'accordo. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Chiarisci un concetto: abbiamo ricordato insomma attesi guadagni per 4 miliardi dalle sinergie, insomma da tutto questo accordo, però insomma, la domanda di fondo è una sola: è un accordo veramente solo per risparmiare, per aumentare i guadagni, o è il preambolo per qualcos'altro? Perché i vertici di Renault e di Daimler hanno negato che vi fosse una fusione, però insomma così, molti sono rimasti scettici. C'è sotto dell'altro? No, assolutamente, per ora credo assolutamente di no. Entrambi i presidenti sono stati molto decisi in proposito e credo che, date le esperienze precedenti, soprattutto di Daimler, gli si possa credere. Daimler, ricordiamo che 12 anni fa aveva comprato la Chrysler ed è finita in un disastro. La stessa Renault, non di recente ma un po' più in là, aveva comprato quasi la Volvo e si è dovuta tirare indietro all'ultimo momento. Ghosn ha fatto delle ottime esperienze con la Nissan, avendo un'alleanza relativamente limitata, anche se le quote scambiate qui sono molto più elevate. Quindi secondo me effettivamente, almeno per ora, ma credo per anche per il medio termine, si rimarrà solo a livello operativo con queste partecipazioni molto simboliche. Ecco, per cui dici, le esperienze passate sia di Renault con Volvo che di Daimler con Chrysler, insomma, non sono certo state esaltanti. Non a caso la Volvo adesso è cinese e la Chrysler, come tutti sappiamo, è della Fiat. Ancora, come vedono i tedeschi che, insomma, questa partecipazione dello Stato francese, lo Stato francese è il primo azionista di Renault e ha detto che comunque comprerà azioni anche nella nuova società per... nel capitale di Renault, scusami, per mantenere a livello del 15% la sua quota come Stato? Certo, beh, sicuramente avrebbe potuto essere un problema, appunto, tornando alla domanda di prima, se ci fosse stata o una fusione o comunque un matrimonio più significativo dal punto di vista del capitale. Finché è un'operazione solo sul piano operativo, di scambio di tecnologie, di produzione di modelli in comune, l'avere un partner con una quota del 15% dello Stato per Mercedes non dovrebbe essere un problema. Ricordiamo che in Germania c'è un costruttore molto importante che è la Volkswagen, che ha una quota del 20% in mano a un ente pubblico che è il Land della Bassa Sassonia. Quindi il famoso capitalismo, diciamo, alla tedesca, in cui c'è una partecipazione anche federale. Ancora ci chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666, in realtà di che modelli possiamo ipotizzare, visto che Daimler ha appunto i marchi, come ricordavamo, Mercedes e Smart, e Renault ha il marchio che tutti conosciamo, e poi c'è la Nissan di mezzo. A che segmento, da quello che tu hai capito anche, diciamo, fuori dall'ufficialità della conferenza stampa, a chi andranno a fare più concorrenza? Beh, la cosa è molto chiara, ci sarà una Smart nuova sia a due posti che a quattro, con una piattaforma in comune con la Twingo nuova. Tra l'altro entrambe avranno il motore posteriore come la Smart attuale, quindi per noi una grande novità. E quindi queste faranno la concorrenza al segmento della 500, della Panda, della Ford Ka. La Mercedes poi a parte utilizzerà per la futura classe A, diciamo le più piccole con un marchio Mercedes, dei motori della Renault, quindi risparmierà in questo caso sui costi dei motori, anche se la piattaforma non sarà comune, e la classe A concorre, diciamo, nel segmento delle piccole un po' di prestigio come la Mini, come auto di questo tipo, come la nuova Audi A1 che è stata appena lanciata a Ginevra. Un'ultima domanda che ci arriva sempre dagli ascoltatori, non è chiaro, in effetti è un annuncio, da dove arriveranno questi guadagni per 4 miliardi? Siccome è tanta roba, 4 miliardi per un'operazione del genere, tu hai capito, anche lì sono sinergie, cioè risparmi di costi, costi che si uniscono, risparmi appunto su approvvigionamenti e altre cose, oppure anche incremento delle vendite con questa nuova alleanza? Dunque, sono soprattutto risparmi di costi, il manager non hanno voluto essere troppo dettagliati, ma diciamo che credo all'80-90% siano risparmi di costi sugli acquisti, sulla condivisione di piattaforme e sugli investimenti, cioè investire in un nuovo modello dividendo i costi per due produce già dei notevoli risparmi. Ricordiamo che sono 4 miliardi da dividere in due, anzi in tre, perché c'è Nissan, nell'arco di 5 anni, quindi è una cifra sicuramente ambiziosa, ma probabilmente fattibile se tutto andrà per il verso giusto. Un'ultima domanda, Andrea, prima di salutarti. I concorrenti a questo punto che reazioni potrebbero avere, come la prenderanno? Mi riferisco al gruppo Fiat innanzitutto, al gruppo PSA per quello che va dalla Francia e anche a Volkswagen. Diciamo che Fiat ha già abbastanza carne al fuoco con Chrysler, sappiamo che Marchionne sta concentrando molto su questa alleanza transatlantica e tra due settimane annuncerà il piano strategico della Fiat che terrà conto appunto del ruolo, certo, di Chrysler, quindi ci mostrerà in molto maggiore dettaglio per esempio quali sono le sinergie in termini monetari che conta di tirar fuori da Chrysler. Quelli che rimangono a questo punto un po' appesi, per così dire, sono da un lato la Peugeot che tu hai citato e dall'altro la BMW. Sappiamo che le due aziende stanno negoziando per un accordo simile, che potrebbe essere simile a quello di Daimler e Renault, hanno un po' rallentato negli ultimi tempi, ma può darsi che poi finiscano per avere un'intesa non troppo dissimile da quella annunciata oggi. E in effetti, comunque, anche a luce di quello che hai appena detto, si va verso quello scenario ipotizzato da Marchionne 2 anni fa, Highlander, Marchionne, cioè ne resteranno solo 6 in tutto il mondo di produttori, non necessariamente attraverso le fusioni, ma già ragionare di piattaforme e modelli in comune significa ridurre il numero oggettivo dei soggetti, Andrea. Sì, magari non rimarranno solo sei, ma sicuramente quelli che rimarranno avranno o direttamente con l'alleanza o con appunto queste cooperazioni avranno dei volumi produttivi, diciamo, dai 4,5-5 milioni di auto in su, che è un po' quello che diceva Marchionne. D'altra parte, soprattutto per investire nelle nuove tecnologie, quindi l'auto elettrica, l'auto ibrida, ma anche il miglioramento dei consumi dei motori a scoppio a benzina o diesel, servono un sacco di soldi e quindi vanno ripartiti su un numero di veicoli il più grande possibile. Bene, grazie all'inviato del Sole 24 Ore a Bruxelles, Andrea Malan. Arrivederci, buonasera a tutti. Staremo a vedere poi che cos'altro si muoverà nel settore auto. Adesso le informazioni per chi è in auto e poi il 349-238-6666 i vostri messaggi. Poi ci colleghiamo con Parigi, con l'Ocse, per capire anche le tensioni sull'euro. Anche oggi, ripeto, nuovo record nella differenza tra obbligazioni greche e obbligazioni tedesche. Ultima parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Una notizia appena battuta dalle agenzie: la Procura di Roma ha recuperato circa 542 milioni di euro dalle società Fastweb e da Telecom Sparkle, che costituiscono il provento dell'IVA non versata allo Stato nell'ambito delle operazioni illecite, il carosello che abbiamo raccontato molte volte, scoperte nell'inchiesta riguardante tra l'altro anche un maxi riciclaggio di circa 2 miliardi di euro, in cui poi erano coinvolti elementi dell'Andrangheta, Mokbel e quant'altro. Il PM ha recuperato mezzo miliardo di euro di IVA in evasa, e a mio avviso si complica la situazione sia per Fastweb che per Telecom Serbia. Comunque, ultimo tema di oggi, le nuove stime dell'Ocse sulle economie del G7, America, Italia e anche Grecia. Crescerà più in fretta l'America, gli Stati Uniti, rispetto all'area euro e anche rispetto al Giappone. Il PIL americano nei primi due trimestri farà un più 2,4, un più 2,3% e quindi recupero più rapido per l'economia stellestrisce. E allora colleghiamoci appunto con Parigi, dove c'è il capo economista dell'Ocse, Piercarlo Padoan. Buonasera. Buonasera. Allora, dottor Padoan, prima domanda: se ho ben capito, oltre che una crescita guidata dall'Asia, cioè Cina e India, di cui ormai tutti abbiamo chiaro la dinamica, voi avete anche stimato una crescita più forte nella prima metà del 2010 degli Stati Uniti rispetto alle principali economie dell'area euro, quindi Italia, Francia, Germania e anche del Giappone? Sì, esatto. E secondo voi questo è dovuto a che cosa come dinamica? Dunque, questi indicatori ci danno un'idea della velocità con cui i paesi si riprendono dalla recessione, e l'economia americana si sta dimostrando più dinamica nel riprendersi dalla recessione, anche se, diciamo, per mettere tutto il peso sui piatti della bilancia, negli Stati Uniti il costo in termini di disoccupazione sembra essere più elevato, anche se la disoccupazione negli Stati Uniti sembra adesso aver raggiunto il suo massimo. Quindi l'economia americana è più veloce sia nella recessione che nella ripresa. Ecco, lei toccava il tema della disoccupazione. Spesso si è evocato il timore, per alcuni casi anche in alcuni casi anche una certezza, della jobless recovery, cioè della ripresa economica senza però che si creino nuovi occupati. Mi sembra che anche su questo voi siate cautamente ottimisti? Cioè potrebbe non essere una ripresa senza nuovi occupati? Beh, qualche nuovo occupato c'è sicuramente, il problema è sapere se quando questa fase di ripresa sarà completata, se le economie saranno state in grado di riassorbire tutta la disoccupazione che si è creata nella recessione. Qui le cose forse sono meno brillanti e meno ottimiste di quanto possiamo essere. C'è un rischio di ripresa senza occupazione, ma in realtà bisogna capire se nel lungo periodo ci sarà disoccupazione permanente, che sarà più difficile da assorbire. Altro timore, sempre a livello mondiale, è della W, ossia che ha una ripresa in corso, possa in qualche modo succedere una nuova caduta e quindi seguire una nuova caduta e quindi, da questo punto di vista, il nuovo rischio di uno scoppio di una bolla. Temete che vi sia una W Uno. Due, temete che si stia generando una bolla in qualche modo dovuta a un eccesso di liquidità, di tassi bassi? Abbiamo visto la speculazione finanziaria tornare ai livelli massimi. Il rischio della W non si può del tutto escludere, però si sta allontanando rispetto a, diciamo, sei mesi fa, quindi siamo un po' più rassicurati su questo rischio. Sulla questione della bolla, è un fatto che la grande espansione monetaria, soprattutto negli Stati Uniti a seguito della recessione, ha messo in circolazione una grande quantità di liquidità che sta cercando profitti e sta anche, quindi, in qualche misura in altre parti del mondo generando aumenti eccessivamente rapidi e artificiali dei prezzi di assets e di case. Quindi possiamo chiamarla bolla o meno, ma c'è un rischio di surriscaldamento. Insomma, è la solita storia: quando le banche centrali abbassano i tassi per agevolare l'economia, il denaro costa poco, è facile prenderlo in prestito ed è facile che si crei una bolla dovuta alla liquidità. Questo secondo lei vale anche per le materie prime, petrolio, acciaio, rame, o lì invece non c'è bolla ma è una vera domanda dovuta alla crescita cinese e asiatica in generale? Beh, questo è un problema che, come sappiamo, c'era prima della recessione e c'è anche adesso. Sicuramente con la ripresa della domanda nei paesi emergenti, questo si riverbera sui prezzi delle materie prime, ci possono essere anche lì componenti speculative. È sempre molto difficile distinguere queste due componenti. Dovremo stare molto attenti all'andamento dei prezzi nei prossimi trimestri, perché è vero che adesso le prospettive di inflazione sembrano non esserci, ma non è detto che questa situazione permanga nel tempo molto a lungo. Ancora due domande che riguardano l'Italia. Le chiedo, voi avete stimato un primo trimestre quanto a PIL italiano in crescita dell'1,2%, che è una crescita buona, più che buona, visto che la stima per l'anno di vari istituti è dello 0,8. Poi però prevedete una frenata del PIL italiano nel secondo trimestre, cioè si crescerà solo dello 0,5%, meno della metà. Come mai una frenata? Noi avevamo capito che la ripresa fosse lenta, debole, fragile, ma graduale almeno. Beh, innanzitutto questi sono dati a breve termine, riguardano due trimestri, quindi difficile estrapolare all'andamento dell'anno, di cui non abbiamo ancora i numeri. Questo andamento diverso fra i due trimestri riflette in parte il fatto che nel primo dei due trimestri si incorporano i dati sulla vendita di autovetture, che sono state particolarmente positive nelle ultime settimane e che invece per adesso non vediamo riflettersi nel secondo trimestre. E quindi, diciamo, è l'effetto anche auto che falsa in senso positivo, ma lo falsa il dato. Ancora sull'Italia, voi avete chiesto, insomma, avete applaudito comunque alla politica del governo e all'attenzione fatta sul debito. Ieri ricordavamo come il deficit italiano, pur essendo alto al 5%, sia come quello tedesco, minore dell'8,5% che è stimato in Francia quest'anno, nettamente minore, anzi quasi un terzo, del 12% britannico, del 15% irlandese, per non parlare di Spagna e Grecia. Questo vuol dire che, per paragone, l'Italia in realtà sta migliorando la sua posizione sul fronte conti pubblici, deficit in primo luogo? Beh, come ha detto lei, quello che conta in questo periodo è la velocità con cui aumenta il debito dei paesi, che aumenta dappertutto. In Italia, che è un paese ad alto debito, il debito stesso aumenta molto più lentamente. Questo è un fatto importante che i mercati in qualche modo riconoscono, vista il diverso premio del rischio che chiedono sui titoli sovrani dei paesi dell'area euro. Quindi diversi rendimenti dei bot, noi non dobbiamo pagare così tanto per trovare sottoscrittore del nostro debito, come invece ha fatto la Grecia. Ed è l'ultima domanda, di nuovo la differenza tra quanto rende un titolo di Stato tedesco, il Bund, e un titolo di Stato greco è schizzata ai massimi storici, oltre il 4% anche oggi, è tantissimo se pensiamo a quello che è il livello dei tassi. Cioè, il governo greco costa un 4% in più trovare investitori che finanzino il suo debito. L'euro si è di nuovo indebolito, secondo lei è finito quell'effetto di riappacificazione che si era avuto dopo l'accordo a livello europeo per gli aiuti alla Grecia? Cioè, la Grecia torna a essere un elemento su cui speculare o di preoccupazione? I mercati vogliono vedere se gli impegni presi dal governo greco saranno effettivamente messi in pratica, e saranno messi in pratica rapidamente, quindi stanno, come si dice, testando la volontà politica del governo, che è il primo fattore che deve essere messo in campo per risolvere la crisi greca. Ma lei è ottimista o cautamente pessimista sull'andamento e sullo sviluppo della crisi greca? Io sono ottimista perché il rischio